Allora, ritorniamo in voce perché siamo riusciti a contattare un compagno del comitato antirazzista milanese che ci informa di come è andato, insomma, il processo per la rivolta di Via Corelli. Buongiorno. Ciao, ciao. Buongiorno, allora insomma una vicenda che è stata seguita con enorme difficoltà date le ultime restrizioni, insomma, che si sono verificate al CIE di Corelli, in particolare insomma le comunicazioni comunque sono fortemente limitate tra ciò che si muove fuori e i reclusi all'interno. Uno dei motivi per cui già insomma ci si diceva prima questo processo comunque non ha potuto godere di tutto il supporto, di tutto l'appoggio, insomma, che sarebbe stato necessario. Certo, uno sforzo in questo senso è stato fatto. Dici com'è andata questa mattina? Ma questa mattina è andata male, ovviamente, nel senso che hanno condannato tutti e sette gli immigrati tunisini che avevano inscenato questa rivolta due settimane fa. Si sono presi 10 mesi a testa, come dicevi tu, insomma, è da un po' di tempo, è molto difficile seguire i contatti, diciamo praticamente impossibile. La stessa rivolta l'abbiamo appresa dai giornali, ci siamo mossi subito alla prima udienza preliminare per quello che è stato possibile, abbiamo mandato lettere all'interno che oggi ci hanno mostrato, suggerendogli di nominare un avvocato che e poi quello che ha seguito tutti gli episodi precedenti. La cosa loro non l'hanno fatta, e d'altra parte il livello di conoscenza è proprio poco superiore allo zero. Oggi l'unico dato positivo è che, essendo più numerosi, diciamo battaglieri, hanno potuto constatare che esiste un comitato, un gruppo di compagni che si muove su questa questione, però praticamente non c'è più nulla da fare, nel senso che hanno patteggiato i 10 mesi sotto minacce esplicite del giudice, che se non lo avessero fatto la pena poteva essere anche molto più alta, perché il PM ha chiesto 2 anni, e quindi di fronte a questo tipo di situazione insomma hanno deciso di patteggiare. Chiaramente non c'era un supporto legale adeguato, va detto che comunque lo stesso avvocato che era presente, anche se non era nominato, ha detto che in questa circostanza è molto difficile che un avvocato possa incidere sull'entità della pena, non più di tanto. Forse si poteva rischiare un processo ordinario e quindi far salire un attimino la tensione politica su questa vicenda, però il giudice, insomma, difficilmente si fa scalfire, può cambiare posizione, insomma, dopo il contesto è questo, insomma. Va detto che questi ragazzi in teoria non dovevano neanche stare lì, nel senso che avrebbero dovuto godere del permesso di soggiorno temporaneo che il recente decreto legge ha istituito, quindi non è chiaro come mai fossero lì, però non conoscono una parola di italiano, non hanno contatti a Milano, infatti li hanno prelevati a Genova, insomma questo è l'esito della frittata. Eh sì, insomma, immaginiamo quale sia stato lo spirito che ha portato i tunisini a rivoltarsi dentro le celle del CIE, rinchiusi senza nemmeno saperne i motivi. Loro che tra l'altro di certo non intendevano nemmeno, insomma, permanere sul suolo del nostro territorio, ma casomai allargare le frontiere. Intenzionati, almeno dalle dichiarazioni, ad andare in Francia, di fronte alla prospettiva di farsi 6 mesi in un CIE, hanno dichiarato che piuttosto se ne sarebbero ritornati in Tunisia e che avrebbero continuato, perché loro hanno ammesso i fatti, quindi non c'è un'ammissione di colpa, chiamiamola così, da un punto di vista giuridico, rispetto ai danneggiamenti di cui erano accusati non hanno negato nulla, anzi hanno dichiarato che se fossero tornati in un CIE avrebbero rifatto, perché ovviamente non hanno attraversato il mare nelle condizioni che possiamo... non facciamo fatica a immaginare, le immagini di Lampedusa sono esplicite, non lo hanno fatto per finire 6 mesi rinchiusi mentre avevano l'intenzione di andarsene in Francia tutti e sette, e quindi lo stato d'animo è quello, insomma, hanno mostrato molta combattività e non la pagano sulla loro pelle. Noi quello che faremo è continuare un rapporto epistolare, pur sapendo che molto probabilmente lì non staranno a San Vittore più di tanto, verranno sicuramente smistati in qualche altra città, manterremo i contatti con loro se loro ne hanno l'intenzione, dall'atteggiamento in aula sembrerebbe di sì, poi niente, quando usciranno, benvenuti nel circo del razzismo italiano. Certamente. Un altro paio di cose volevo chiederti. La prima, ma proprio così, insomma, se quantomeno si è cercato di fare un ragionamento per capire come mai si verifichino queste eccezioni, insomma, che vanno poi a colpire singole individualità, in questo caso i tunisini di via Corelli, rispetto, dicevo, chiaramente alla concessione dei permessi di soggiorno temporanei, per quanto poi ci sono tutte le limitazioni e le restrizioni invocate anche dal commissario europeo rispetto a Schengen, ma insomma sarebbe uno strumento che permetterebbe comunque a queste persone quantomeno di godere di qualche briciolo di speranza in più. E l'altra, se ci racconti anche come è andata la questione proprio in aula, anche sappiamo che chiaramente lì l'obiettivo sono i migranti, insomma anche l'obiettivo proprio del processo politico che si è consumato ai loro danni, ma insomma anche nei vostri confronti di certo non sono stati teneri questa mattina, no? Ma vabbè, seconda domanda è un po' più semplice, quindi rispondo subito. No, vabbè, non sono stati teneri, poi il PM in particolare, insomma, dopo la condanna sono partiti una serie, diciamo così, di comizi, se vogliamo usare questo termine, non molto teneri nei confronti della toga rossa, visto che va di moda questo termine, questi sono rossi di sangue, il sangue degli altri. Insomma, abbiamo, come dire, ci siamo fatti anche un po' trasportare dalla rabbia, ovviamente non c'è stata nessuna forma di colluttazione, si è aperto uno striscioncino con scritto solidarietà, anzi libertà per i ribelli in francese, prontamente c'è stato un intervento dei carabinieri, poi il PM alla fine ha chiesto l'identificazione, che non è avvenuta, nel senso che i documenti non sono poi stati consegnati e alla fine ci hanno fatto uscire dal tribunale, però siccome ci conoscono penso che sarà occasione di un'ulteriore denuncia. Evidentemente questo episodio probabilmente si lega alla risposta che volevo dare alla prima domanda, perché da un punto di vista giuridico non riesco a capire come mai facciano a bypassare un decreto dopo che i censimenti sono stati fatti, diciamo, al sud o a Manduria o a Lampedusa al primo filtro, e quindi questi permessi di soggiorno temporaneo avrebbero dovuto essere concessi. Come mai non li abbiano e come possa marciare il meccanismo legale in questo senso non lo so. Purtroppo da questo punto di vista non avere contatti diretti con chi finisce in Corelli, non sapere neanche quanti, che tipologia, rende anche più difficile capire sia il perché e sia il come poter eventualmente intervenire. A nostro avviso, a avviso degli avvocati, non ci dovevano neanche stare in Corelli, però questo non vuol dire che secondo la legge abbiano il diritto di, come dire, protestare vivacemente incendiando poi un materasso o poco più, e quindi si sono beccati la condanna nonostante in teoria non dovessero essere lì. Quello che mi sembra di poter notare è che dopo la visita di Berlusconi in Francia e quindi il niet francese al transito, che è stata sicuramente l'intenzione del Ministero degli Interni, cioè quel permesso di soggiorno aveva questa finalità, appurato che la maggioranza di loro voleva andarsene in Francia o comunque in altri paesi e non permanere in Italia, quella poteva essere la soluzione per farli transitare e non avere il problema di espellerli, diciamo, verso paesi nei confronti dei quali i trattati sono come minimo vacillanti, penso innanzitutto alla Libia per quello che evidentemente sta succedendo. Forse dopo il NIEC di Sarkozy, che insomma è stato molto chiaro, la serie non passano, noi non li prendiamo, noi non li facciamo entrare, quindi tutte le vicende di Parigi, non so se immagino che ne siate al corrente, lo sgombero recente che c'è stato di un palazzo occupato da dei tunisini giunti in Francia, probabilmente in corrispondenza di questa, diciamo, chiusura francese, il segnale che l'Italia vuole dare può essere maggiormente repressivo per indurre queste persone a, come dire, ad esistere, a ritornare in patria, insomma, a frenare quella apparente limitata libertà di circolazione che invece il decreto l'ha istituito. Però questa è solo una mia ipotesi, e prendetela così, come un libero pensiero non suffragato da altro se non da episodi come questo, che comunque sono, come dire, una deroga al decreto legge, questo decreto presidenziale, quel che era. Beh, in effetti, insomma, comunque mettere insieme tutti questi segnali, in effetti qualcosa la dice. E tra l'altro, insomma, è anche questo il frutto di una situazione nella quale non soltanto chiaramente le scelte del governo sono assolutamente scellerate, ma poi le prendono queste scelte anche con il dovuto carico di improvvisazione, insomma, e dal punto di vista diplomatico nelle relazioni con gli altri paesi. Stanno aggiungendo, sono previsti per oggi gli ultimi 350 di un blocco di 700 tunisini per i quali è stata trovata una disponibilità in alberghi della regione, quindi in questo caso c'è un servizio di prima accoglienza, che vuol dire mangiarti un piatto e farti una doccia, istituito dalla Croce Rossa, senza controllo documenti, perché quello è stato già fatto, diciamo, a monte, cioè al sud, e poi in teoria, vedo che stia andando così, vengono accompagnate in strutture, diciamo, di accoglienza di questo genere, che sembra siano appunto degli alberghi a una o due stelle, presso i quali trovano, insomma, appunto un riparo per un periodo limitato. Quindi, come dire, sì, sembra un po' una linea raffazzonata, dovuta al fatto che obiettivamente il flusso è un flusso che, come dire, mette a prova le leggi e le regole dello Stato che ben conosciamo. Quindi da una parte queste strutture di accoglienza, diciamo, temporanee, dall'altra però appunto persone internate, piuttosto che finire in un albergo, finiscono in un CIE. Sembra che ci sia anche una certa dose di improvvisazione, ecco. Eh sì. E soprattutto, insomma, poi sono provvedimenti, a noi cambia poco perché, insomma, la pensiamo in un certo modo, ma il fatto che poi siano totalmente indiscriminati e arbitrari, questo la dice lunga, insomma. Assolutamente. No? Perché poi, il vero problema è che non è facile impostare un intervento, come almeno parzialmente c'era riuscito nel passato recente, proprio per i contatti che si avevano, quindi quando poi che arrivava la telefonata che era successo questo, quell'episodio, bastava dare un nome e almeno, voglio dire, avevi la possibilità anche da un punto di vista giuridico di sostenere, diciamo, un processo politico, che lo è a prescindere dalla volontà dei detenuti. In questo caso non è stato possibile, poi adesso si tratta di, insomma, infierire sugli avvocati d'ufficio, che comunque non è che siano all'altezza della situazione, per dire, una donna, uno di questi tre avvocati ci ha detto l'altra volta che lei non sapeva neanche che cos'era un CIE e si è documentata la sera prima su internet. Beh, non erano proprio nelle mani migliori, come dire, non è che avevano una grande competenza in grado, ma non so, di ribattere, di riuscire a sostenere il fatto stesso che gli imputati hanno dichiarato di averle fatte le cose di cui sono imputati, e quindi sarebbe stato sicuramente più utile avere qualche un avvocato che insomma, sapesse di che cosa si stava parlando. Probabilmente l'esito non sarebbe cambiato, probabilmente, però almeno il processo poteva acquisire un connotato più consono all'azione che queste persone hanno fatto e hanno rivendicato. D'accordo, insomma, un triste epilogo, purtroppo consueto ultimamente, insomma, vediamo un po' come ci si riesce a riorganizzare, perché poi di questo si tratta, date le difficoltà del caso. Grazie mille, allora. Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio. Ciao.